Niente, allora Nicoletti prende la parola, conclude e dopo conclude la fine Mussorogia. Ci dà l'ultimo. Naturalmente queste alcune considerazioni non pretendono di essere una sintesi dei lavori di questi giorni, così ricchi di contributi, ma solo così un tentativo di fissare alcuni punti emersi su questo tema. Ma prima di farlo, consentite anche a nome del professor Penzo un ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile il convegno, anzitutto all'Istituto di Scienze Religiose che ci ha ospitato e a tutto lo staff anche organizzativo, ai nostri traduttori. Ringraziamento non solo per questo singolo convegno, ma perché, come avete visto, è una linea di ricerca cominciata tanti anni fa, quando questa tematica del rapporto tra sacro e filosofia contemporanea era forse di interesse solo degli specialisti, e invece, in un certo senso, questa scommessa è una scommessa che oggi incontra un interesse più ampio. Un grazie anche alla editrice Morcelliana che ha pensato assieme a noi il convegno e che raccoglierà poi gli atti di questi lavori. Un grazie anche per quello che su Kierkegaard ha fatto. E naturalmente un grazie anche ai relatori che hanno accettato il nostro invito venendo qui dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, da regioni italiane distanti, per il loro contributo e direi anche per il metodo con cui abbiamo lavorato. Abbiamo parlato lingue diverse, generi letterari diversi, e questo è stato più volte notato, ci sono state analisi rigorose, meditazioni appassionate, spunti polemici, ma tutti questi generi letterari sono generi usati da Kierkegaard, il quale si divertiva e si sarà divertito anche in questi giorni a far perdere le tracce di se stesso, perenne Giano Bifronte, come Kierkegaard diceva di sé, unico custode del suo segreto, come lui amava ripetere nelle sue carte. Dopo la mia morte non si troverà nelle mie carte, e questa è la mia consolazione, una sola spiegazione di ciò che in verità ha riempito la mia vita. Questo gioco di maschere, un'affermazione certo esagerata, nel senso che non bisogna poi cadere troppo nel gioco kierkegaardiano, ma che in qualche modo ci mette in guardia dal cadere in interpretazioni riduttive e unilaterali del pensiero di questo autore. E mi pare dunque che il carattere anche problematico e pluralistico e vario di queste riflessioni sia una ricchezza e una aderenza al personaggio più che non un tradimento. Alle spalle di questo convegno c'era il desiderio di rivisitare il pensiero di Kierkegaard. È stato detto che sono molti anni che in Italia non si riusciva a organizzare un convegno come questo su questo pensatore. Recuperare il Kierkegaard pensatore, come stamattina è stato detto citando Heidegger, non solo come scrittore religioso, ma come pensatore. Lui stesso si definiva scrittore religioso, ma anche qui non senza intenzione dialettica. E c'è un modo per liquidare il suo pensiero nel dire appunto che era solo scrittore religioso. Mi pare invece che la sua densità di pensiero sia emersa, in pieno, quella densità di pensiero che rivendicava anche Giorgio Penzo in apertura dei lavori. Il convegno era centrato sul tema del paradosso con un triplice intento. Il primo, chiarire il senso e il ruolo di questo tema nel pensiero di Kierkegaard. E qui credo che la giornata di ieri, oltre anche a molte cose di questa mattina, abbiano aiutato a fare chiarezza su questo punto, anche se è vero che forse è mancato e l'ha notato qualcuno e forse si potrà recuperare nel volume una ricostruzione analitica di come questa categoria emerge nel pensiero di Kierkegaard, qual è la sua genesi, qual è il suo sviluppo nelle diverse opere, e da questo punto di vista forse un lavoro di questo genere può essere utile proprio per chiarire le diverse accezioni in cui il termine viene usato. Un secondo momento era individuare le ricadute e l'influenza di questa categoria kierkegaardiana sulla filosofia e teologia del Novecento, e oggi naturalmente è stato solo un assaggio parziale, però tutti noi credo abbiamo visto quanto ricco su Heidegger, su Jaspers e su questo squarcio di teologia del Novecento. Doveva esserci anche la relazione di Codalle, a questo molte altre se ne potrebbero aggiungere. E infine un terzo intento era quello di interrogarsi o cominciare a interrogarsi per capire se questa categoria del paradosso può essere usata in modo produttivo in campo filosofico-teologico o se invece essa sia solo ed esclusivamente un'arma polemica e quindi un'arma critica contro le pretese della speculazione sia in campo filosofico che teologico. E su questo mi pare, su questa ricerca di una produttività della categoria, quella di cui forse andava in cerca anche Italo Mancini nella sua riflessione sul paradosso, può essere una linea che è emersa anche da questo convegno. Con queste riflessioni mi pare che Kierkegaard sia stato restituito non solo alla storia del pensiero, ma anche il tema del paradosso è stato in qualche modo restituito alla storia del pensiero. Non rappresenta questo tema solo un'invenzione letteraria brillante di una filosofia o di una teologia in difficoltà, ma come la ricerca a cui il professor Schröer ha accennato prima, si tratta di una categoria che intreccia costantemente dalle origini la vicenda del pensiero filosofico. Non a caso il volume che raccoglie gli atti di questo convegno tenuto all'Università Cattolica di Eichstätt nel 1990 parla appunto del paradosso come legato alla storia del pensiero occidentale. Ebbene, alle origini di questa categoria, nelle origini greche, è presente il senso del paradosso come terapia, oggi riscoperto dalla psicologia. In un antico testo dello Pseudo-Demostene il termine paradoxos è usato proprio in questo significato. Un uomo irrazionale, un uomo folle che ha perso il controllo di sé può venir salvato solo da un evento inatteso, imprevedibile e incalcolabile. L'inatteso che scardina la logica della follia, quindi anche di quella forma di follia che è l'assolutizzazione della ragione umana. E in questo senso anche per Kierkegaard non va dimenticato il senso dialettico con cui lui stesso cercava di essere paradossale. Il tema del correttivo è un filo rosso che contraddistingue la sua posizione, una posizione ironica ma costantemente anche auto-ironica. Kierkegaard intendeva essere un correttivo. Appunto, in un certo senso, una terapia, anche se forse la parola non gli sarebbe piaciuta, rispetto a un'epoca che ha reso tutto troppo facile. E così questo termine, abbiamo appreso, è anche alle origini della teologia cristiana. È stato ricordato qui il dibattito cristologico, soprattutto nei padri della Chiesa, e come poi questo tema, e qui il professor Schröer ci insegna molto, ritorna in Lutero, come è stato ricordato dal professor Fischer, e poi in Sebastian Franck, il tema appunto dei paradossi teologici. Dunque questo tema non è un'invenzione kierkegaardiana e va ricollocato all'interno di una storia del concetto e di una storia del pensiero. Ora, da questo punto di vista, mi pare che è stato messo a fuoco una pluralità di significati. Anzitutto il paradosso come categoria del pensiero, anche se con le precisazioni che proprio l'ultimo intervento di Bonola ha fatto, stato. Parlare di categoria del pensiero non deve far smarrire la paradossalità del paradosso stesso. E tuttavia c'è un'esigenza, mi pare importante, di collocare questa riflessione di Kierkegaard sullo sfondo degli interlocutori del tempo. Sono stati evocati i nomi di Schelling, di Hegel e in generale l'orizzonte più ampio della storia della filosofia. Qui il tema del paradosso si intreccia col tema dell'assurdo, della contraddizione. Là dove il pensiero vuole pensare l'infinito e si trova rigettato sulla spiaggia della finitezza. Proprio lo scacco cui va incontro il pensiero, là dove vuole dimostrare in base alle sue leggi il suo principio, si rivela segno del suo essere finito, ossia dato. Un paradosso dunque filosofico. Poi è stato messo in luce un secondo livello, il paradosso come espressione della verità religiosa, sia della religiosità A che della religiosità B. Il Dio che si rivela e che si coglie attraverso un procedimento negativo. E poi il paradosso della rivelazione cristiana, di un Dio che si fa uomo e che si fa, come dice Kierkegaard, questo singolo uomo. Come lui dice, sputacchiato e crocifisso, e qui le belle riflessioni sulla cristologia del padre Tiet, del professor Fischer, credo abbiano messo in luce la centralità del tema cristologico per una comprensione del paradosso. Da tutto questo si vede che il paradosso qui non ha nulla a che vedere con l'artificio retorico, perché a infrangere le opinioni consolidate e dominanti, para ten doxen, non è l'abilità di un maestro di persuasione, ma è il darsi della verità stessa. È il darsi della verità che infrange l'opinione. E quindi evocando il paradosso si evoca costitutivamente il come, il rapporto con la verità. Dire che la verità si esprime in termini paradossali significa dire qualcosa del rapporto tra la verità e l'uomo. Significa che la verità irrompe sulla scena infrangendo l'opinione dell'uomo. Non è dunque una declinazione patetica, nel senso non kierkegaardiano, ma negativo del termine, sottolineare il come. Ora, questo irrompere della verità sulla scena, che infrange l'opinione, chiama in causa il tema della morte. E bene, mi pare, hanno fatto le relazioni di Anna Giannatiempo, quella di Modica, sul tema dell'alterità, l'intervento di Tomasoni a evocare questo tema della morte, un tema che in Kierkegaard non ha nulla di patetico o patetico in senso negativo o di morboso, anche se Kierkegaard dice il pensiero della morte, la morte è l'unica ballerina con cui io posso condurre la mia danza. Qui è la morte nella sua nuda fattualità. E questo tema del rapporto tra paradosso e morte è un tema importante, non è forse anche nella filosofia greca presente l'enigma come sfida mortale, il frammento Eracliteo, Omero che muore per non aver saputo risolvere l'enigma, non è forse presente nella vicenda socratica interpretata da Platone, il prigioniero della caverna che infrange l'opinione e viene messo a morte. Non è forse al centro anche della rivelazione di Cristo? E qui il paradosso non è solo l'incarnazione, il Dio che si fa uomo e quindi accetta la vicenda mortale, ma è la verità che viene messa in croce dall'uomo. E forse questa crocifissione non è del tutto prevista nella logica dell'incarnazione, come sembrano in qualche modo dire Peterson e Guardini, teologi intrigati da Kierkegaard. Allora il problema del darsi, della verità e della morte, questo è un problema che Nietzsche ha toccato ma nella sua forma negativa, laddove nell'Anticristo dice forse la croce è un argomento, forse che morire per qualcosa dà valore di verità a questo qualcosa, ma non mi pare questo il caso, questa sarebbe una variante negativa, si può morire anche per cause sbagliate, quindi il come qui non vuol dire tutto, ma il problema è perché la verità nel suo rivelarsi incontra lo spazio della morte. E questo spazio è però lo spazio della libertà. Su questo Kierkegaard, mi pare, ha detto delle cose importanti. Unica possibile libertà umana che proprio dal paradosso viene salvata. Perché se la verità si presentasse con i caratteri dell'evidenza, vi sarebbe solo lo spazio dell'assenso razionale, non quello della scelta e della fede come atto di abbandono dell'orgoglioso e mortifero amor sui. Questo nesso tra paradosso e libertà è fondamentale. E proprio nella cristologia di Kierkegaard il suo Cristo vuole salvare e l'alterità di Dio e la libertà dell'uomo. Di qui si può capire perché Kierkegaard si possa leggere e dalla parte della teologia liberale e dalla parte della teologia dialettica, e mi pare che anche questa pluralità di interpretazioni che sono state qui ricordate sia preziosa. E dunque paradossale non è solo la verità nel suo darsi, ma l'esistenza dell'uomo di fronte al darsi della verità. Paradossale l'esistenza dell'uomo che deve scegliere, perché tutte le vie umane sono chiuse, la via dell'individualità estetica, la via dell'universalità etica. Morte da una parte, potremmo dire morte dall'altra, chi mi libererà con Paolo? Non è forse una lettura anche di questa situazione, quella che Kierkegaard ci offre. E paradossale è ancora l'esistenza cristiana nel suo rapporto col mondo, con la stessa comunità dei credenti, l'ho ricordato Spera e anche Bonola nell'intervento, però anche qui io credo questa categoria del paradosso applicata alla cristologia va letta all'interno dell'intera cristologia kierkegaardiana. Cristo è il paradosso, ma Kierkegaard ricorda anche che Cristo è il mediatore. Ed è paradosso proprio perché è mediatore. Il paradosso segna l'infinita differenza qualitativa tra l'uomo e Dio, ma lo segna perché il cristianesimo ha annunciato, come mai nessun altro aveva fatto, la massima vicinanza tra l'uomo e Dio. Un passo di Kierkegaard solo per ricordare questo. Il mediatore è colui che allontana, è come il maggiordomo che ci avverte che noi non possiamo rivolgere direttamente il nostro discorso a Sua Maestà. Quale logica non hanno sempre le cose divine? Sempre un raddoppiamento, mentre ribassa, Dio nello stesso tempo innalza. Si ribassa, invia un mediatore. Il mediatore esprime la distanza, però noi veniamo a trovarci più vicini a Dio. L'avvicinamento diventa un allontanamento e tuttavia resta un reale avvicinamento. E così anche il tema del modello che Kierkegaard appunto ritrova nella sua cristologia è un tema che sottolinea il tema del martirio, però mai un martirio concepito come un umano tormentarsi per la propria inadeguatezza, ma un martirio letto nella categoria della teologia della grazia. E su questo tema del martirio io credo che si potrebbe leggere un'ultima, e concludo, presenza del paradosso kierkegaardiano, il martirio come categoria che esprime il paradosso del rapporto tra cristianesimo e società o tra religione e politica, e non è forse stata anche questa una presenza significativa del paradosso kierkegaardiano nella vita del Novecento, penso alla lettura di Bonhoeffer del tema della sofferenza. Ecco, proprio questo tema della sofferenza e del martirio come forma di azione paradossale, forma di azione paradossale che può in qualche modo frenare la confusione, la commistione tra religione e politica, la sacralizzazione, il farsi divino del politico che Kierkegaard vedeva al suo tempo e che altri teologi del Novecento hanno visto al loro tempo. E qui su questo tema del martire ritorna, sia pure con diversità, il tema di Socrate e Cristo, e Kierkegaard negli anni del 48 scrive La superiorità del martire consiste nell'abbandonare la propria vita. Egli conquista come l'uomo morto che ritorna. Il Socrate morto fermò il vertice che il Socrate vivo non riuscì a fermare. Ma il Socrate vivo capì sul piano intellettuale che solo un uomo morto può conquistare come vittima sacrificale e capì sul piano etico come dirigere la sua intera vita a diventare esattamente quello. E per questo Kierkegaard può scrivere che nel momento decisivo, quando ci si accorgerà che non è più possibile governare mondanamente, allora si vedrà che nel momento decisivo solo i martiri sono capaci di governare il mondo. Anche questo tema del paradosso letto all'interno della dinamica del martirio in relazione con la storia mi sembra un tema che Kierkegaard lascia alla riflessione di oggi. Grazie ancora. Dopo queste belle conclusioni fatte da Nicoletti, sottolineiamo la conclusione di tutto il corso che fa adesso Monsignor Roggia. Dopo questi discorsi così seri e impegnativi, mi sembra quasi di essere frivolo a pretendere di interloquire, anche perché, vi confesso, mi sono reso conto di quanto poco sono filosofo. Discorso sul paradosso, per quanto ascoltato con attenzione, magari con qualche lacuna imposta, gioco forza, ecco, mi lascia ancora di fronte al paradosso, come prima direi, non quantitativamente ma qualitativamente, non ritengo e non presumo di aver fatto molti passi in avanti nell'afferrare concettualmente tutto questo, ma ecco, questo fa parte del mio limite intellettuale che appunto qui devo confessare, e che forse altri anche della mia specie, ecco, potrebbero dire, con tutto il rispetto e anzi con riconoscenza piena di chi ci aiuta molto più robustamente, in una maniera molto più impegnativa, a afferrare tutto questo mondo di cose. Ecco, ho sentito anche molti doni attuali per la nostra vita spirituale del momento, perché se da un lato ho sentito che le chiese non possono non essere idolatre, dall'altro canto ho sentito proprio Bruno Forte che ci ha ricordato la vis comica che è necessaria e che, guarda caso, proviene dalla tradizione ebraico-cristiana. Il Salmo 113, con la sua satira contro ogni idolatria, gli idoli delle genti sono argento e oro, hanno occhi e non vedono, eccetera, eccetera, mi pare che è proprio la strada migliore per aiutare anche le chiese a non essere del tutto idolatriche. Forse potrebbe essere più efficace che la polemica fatta con serietà bestiale, dicono a Colonia, quando la si deve superare, vero? Così il Vangelo Matteo 23 sulla cattedra di Mosè, con tutto quel che segue, se non è vis comica quella, che però, ecco, dobbiamo essere anche continuamente aiutati a sentirne e a risentirne l'efficacia. Nella mia posizione, nella mia condizione, certo ho sentito e raccolto molto più ampiamente il vantaggio di quella Gleichzeitigkeit, con quel concetto della contemporaneità che qui esplode e continuamente riemerge, trapela da tutte le parti, vorrei dire, anche perché insomma da tempo mi ha arrabbiato. Per esempio in questioni come questa, se nell'oggi, anche terra a terra nel discorso coi fedeli, un po' di più di questo recupero della Gleichzeitigkeit, della possibilità di una certa contemporaneità della nostra vita con ciò che è accaduto in Cristo Gesù, ecco, non sia più utile, più fecondo, che il discorso della transustanziazione, ecco, sul quale si insiste ancora oggi, però in termini concettuali, ma che insomma è alla ricerca di essere ricompreso in modo più completo, più profondo. Ma non ditelo a Bologna per il congresso eucaristico al Cardinal Bifi, perché potrebbe forse scatenare delle discussioni eccessive, ecco. Ma proprio su questo punto, dato che abbiamo iniziato l'Avvento, che per quel che vedo anche dai formulari liturgici fortemente ci sollecita a reimparare questa contemporaneità, sia col passato sia col Cristo che ha da venire. Ecco, insomma, se questo concetto ci aiutasse a tirar giù dal piano retorico espressioni liturgiche come queste, quando nel Natale si canta «Odie Christus natus est, odie Salvator apparuit». Ecco, che non venga più concepito solo come una formula retorica, come una frase poetica, ecco, che noi con sapienza quasi tendiamo sempre a sottintendere. Ecco, mi pare che è un regalo grandioso che proprio in vista del Natale, anche in questi giorni, ci è stato donato in questo incontro, e profitto dell'occasione per augurare a tutti un lieto Natale proprio in questa misteriosa e paradossale Gleichzeitigkeit nella quale tutti noi speriamo. Grazie. Dopo le bellissime parole di Monsignor Roger, diciamo, il convegno è chiuso, concluso, e Fischer, puoi dire quello che vuoi. Caro Giorgio e caro signor Nicoletti, non vogliamo partire senza ringraziarvi, anche l'Istituto di Scienze Religiose e il suo direttore, Eugenio Roggia, e tutti gli altri collaboratori per questo convegno affascinante. Ci ha fatto molto piacere di conoscere tante persone dotte e interessanti, di ascoltare tante relazioni profonde sul tema kierkegaardiana. Ancora una volta era un'atmosfera splendida fra i filosofi e teologi, fra i cattolici e protestanti, fra gli italiani e tedeschi e gli altri ospiti stranieri. E anche l'organizzazione del convegno era un capolavoro. Insomma, grazie dell'invito, dell'accoglienza cordiale, del vostro lavoro e fatica, e soprattutto della vostra gentilezza. Speriamo che un giorno ci rivediamo di nuovo per continuare questi discorsi importanti e pieni di arricchimenti. E tante belle cose per voi e per tutti, e un buon ritorno a casa. Grazie.